Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti e cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che era un po' sparito dalle tavole degli italiani, il burro. E vi aggiungeremo anche un'altra cosa, le acciughe. Le acciughe sono due prodotti che stanno tornando e io do il benvenuto a questi grandi prodotti che sono stati dimenticati e oggi cominciano così a ritornare, si cominciano a rivedere nelle tavole di casa ma anche nelle tavole dei ristoranti. Allora, siccome parliamo di acciughe, c'è uno splendido pezzo di De André, vogliamo ascoltarlo? Le acciughe fanno il pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Ecco, avete sentito, li venderò per niente. E questo è il punto, che le acciughe sono sempre state molto bistrattate, sono sempre state considerate un qualcosa, chiamiamolo così, di serie B, come anche l'ala lunga di cui parla Fabrizio De André. Ma c'è una rivalutazione e addirittura si arriva anche a prezzi di primato dalle acciughe che arrivano dalla Spagna, dal Cantabrico, e magari tireranno un po' il prezzo anche su quelle italiane. Ma io voglio cominciare da una storia bellissima italiana che i due protagonisti che ho in linea probabilmente non conoscono, ma sono stati loro i primi attori. Io Nelida Scaparrone, che faceva parte, perché credo faceva parte, delle ragazze del parco di Monterosso, che è un posto diciamo doc per le acciughe, e ho Gennaro Marciante da Cetara, del titolare di Acqua Pazza. Perché questi due? Innanzitutto la Scaparrone tempo fa io l'ho cercata e mi ha detto: guarda, è finita, noi a Monterosso dopo che c'è stato diciamo quell'alluvione, quei grandi disastri, la nostra cooperativa non lavora più perché non ci sono più i fondi e quindi è finita. È così, Scaparrone? Guardi, sì, diciamo anche questo. Poi ci sono stati problemi anche col parco nazionale, la gestione eccetera, quindi per il momento la cooperativa esiste ma si occupa di turismo, di informazione turistica e non di acciughe, ecco. Aspettiamo di ricominciare appena sarà possibile e appena si ripescheranno di nuovo le acciughe. Ecco, questo giuste. Volevo sapere, questo è il momento del passaggio, com'è esatto. L'annata quest'anno? Ma guardi, io sto facendo delle piccole dimostrazioni per insegnare un po' alle persone questo mestiere, un po' in giro, e ho visto delle acciughe che mediamente sono 48-50 in un chilo, sono ancora piccole insomma. Ce ne possono essere su una cassetta da 10 kg, 2-3 kg di acciughe da salare, ma non di più. Ecco, ricordo numero verde 800 24 00 24, chi volesse intervenire, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, voglio chiedere, poi racconterò qual è questa storia che li lega, Gennaro Marciante da Cetara, ma com'è il passaggio a Cetara? Ci sono ancora le acciughe? Buongiorno innanzitutto a tutti. Sì, ci sono le acciughe, abbiamo una bellissima notizia. Ci sono tante acciughe, ma in questo è un momento particolarissimo perché il nostro mare è anche invaso da tonni, perché c'è stata questa firma tecnica diciamo dalla parte della Comunità Europea, i tonni si sono spinti fin sotto le coste, per cui fanno razzia di tutto quello che è pesce azzurro, e questo è un buon momento perché abbiamo già iniziato la salatura con discrete acciughe. Bene, allora la storia che lega questi, diciamo, questi due personaggi indirettamente è questa, che quando c'è stato il disastro diciamo a Monterosso, Marciante aveva proposto a Milano di fare una grande manifestazione, loro sarebbero stati disposti a venire da Cetara, fare una grande serata con le acciughe. Questo purtroppo per tutta una serie di motivi non è stato possibile. Volevo dirlo alla Scaparrone, che magari non ha mai saputo che da parte di appunto di Cetara c'era stato questo slancio così di solidarietà. È vero. Ringrazio, non ne sapevo assolutamente nulla. Infatti, grazie mille. Purtroppo. Bene, torniamo. Io voglio tornare a Scaparrone. Ok, voi no, non ve ne occupate più, però negli ultimi anni diciamo che c'era stato un curioso interesse, cioè il consumo delle acciughe, specialmente su quello di Monterosso, era cresciuto molto. Pronto? Sì. Pronto, sì, mi sente? Sì, prego. Ecco, noi avevamo parecchi clienti, il nostro prodotto era conosciuto anche grazie alla pubblicità fatta dal Parco Nazionale, chiaramente, e c'era una fortissima richiesta di prodotto. E ora stiamo cercando di risolvere quelli che sono dei problemi burocratici, anche un pochino legati ai costi, perché purtroppo per noi questa è un'attività che ha parecchi costi, è tutta manuale, eccetera, e noi vendiamo acciughe che prepariamo al momento, invasettiamo al momento, quindi non possono essere preparate prima. Abbiamo dei costi di lavoro abbastanza alti, insomma, se il parco non ci sostiene da questo punto di vista noi non riusciamo a farne un'attività che insomma si regga da sola, ecco. Abbiamo bisogno del contributo del parco. Bene, quindi noi lanciamo anche noi questo appello, perché le acciughe di Monterosso sono veramente sono eccellenti, e anche perché per dar lavoro a diverse persone che lavoravano su questa cooperativa. Ma sentiamo Maurizio dalla provincia di Cuneo, un radioascoltatore. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Davide, io volevo parlare della nostra esperienza. Noi siamo siciliani e emigrati in Piemonte, a Brai, in provincia di Cuneo. E facciamo acciughe, lavoriamo le acciughe che ci arrivano dal pescato siciliano. E abbiamo mantenuto questa tradizione grazie, quindi anche una qualità, grazie alla conoscenza e anche a alcuni parenti che per noi ci selezionano il migliore pescato dalla cooperativa. E poi le importiamo qua a Bra, le portiamo qua a Bra dove le lavoriamo, anche perché qua esiste la tradizione, certo, ovviamente dell'acciuga nella cucina piemontese, quindi la Bene, ho identificato in questa voce Maurizio Di Dio. Salve Maurizio, ciao, e continua a mettere sul mercato ottima acciuga. Le acciughe siciliane sono molto buone, il prodotto nazionale è molto buono, bisognerebbe che fossimo capaci di creare l'attenzione verso la nostra qualità, che veramente ci proviamo, ci proviamo. Grazie Maurizio, grazie a Scaparrone, grazie a Marcianti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di burro e di acciughe. Abbiamo iniziato con l'acciuga, ma credo che sia una coppia insostituibile parlare appunto di burro e acciughe. Un'accoppiata appunto che, come dicevo, è stata dimenticata ma sta ritornando. E a proposito di Piemonte, a proposito di quello che ci stava raccontando Maurizio Di Dio, vorrei annunciare che c'è una fiera degli acciugai della Valmaira, ed è dal 1 al 2 giugno a Dronero, quindi credo che gli appassionati delle acciughe trovano pane e burro per i loro denti sicuramente in questa fiera. Bene, continuiamo. Abbiamo detto burro e io voglio parlarne con Dario Bressanini. Bene, Dario Bressanini ha scritto, proprio uscito da qualche giorno, Le bugie nel carrello, che io avevo già citato in una precedente puntata, e voglio chiedere a Dario Bressanini. Lui sostiene in questo libro che il burro italiano, qui magari qualcuno interverrà, è spesso di bassa qualità. Sostiene anche che c'è poca informazione nelle etichette del burro italiano. Bressanini, è così veramente? Sì, ciao Davide. Allora, posto che la qualità del burro dipende da tanti fattori e principalmente anche dalla qualità del latte e dall'alimentazione delle vacche, una parte importante nel produrre burro di qualità va nel metodo di produzione, e in Italia tantissimo burro, non tutto ma una buona parte, in realtà lo possiamo considerare un prodotto secondario della produzione di formaggi come il parmigiano e i formaggi grana in generale, perché la panna per questi formaggi deve essere separata, perché si usa il latte parzialmente scremato per poi preparare il parmigiano o il grana o altri formaggi, deve essere separata nelle condizioni ottimali di temperatura per ottenere dell'ottimo parmigiano, dell'ottimo formaggio. La panna che viene separata poi viene utilizzata per fare del burro. Il punto è che questa temperatura e i tempi di afforamento, che possono durare molte ore, sono ottimali per ottenere un buon formaggio, ma non sono ottimali per poi preparare il burro con la panna separata, perché le temperature normalmente piuttosto alte permettono di sviluppare tutta una serie di sapori, di aromi, perché i microrganismi proliferano per ottenere poi del buon formaggio, ma questo va un po' a discapito della qualità del burro. Tanto è vero che invece in alcuni paesi, molti paesi del nord d'Europa, dove la tradizione del consumo del burro crudo spalmato sul pane è molto più importante che da noi, il burro viene separato immediatamente dal latte, quindi dalla panna, che viene invece refrigerata a temperature molto basse, in modo tale che i microrganismi non possano alterare e dare dei sapori indesiderati. Dario, diciamo che la scelta nostra di molti produttori è più verso il formaggio, la scelta del nord è verso il burro, anche perché credo che al nord c'è di grandi tradizioni sui formaggi, forse non ci sono. Comunque rimani con noi che ne continueremo a discutere, perché ora sentiamo anche un radioascoltatore, Adriano dalla provincia di Padova. Buongiorno Adriano. Salve, buongiorno. Abito in provincia di Padova, però io sono vicentino e lavoro tuttora in provincia di Vicenza. Io ho una pizzeria da 19 anni. Ecco, e sono un ex casaro, ho fatto l'Istituto Tecnico Sperimentale Caseario di Tiene, in provincia di Vicenza, e comunque tantissimi anni che approfondisco il burro e anche le acciughe, perché fatalità nella puntata di oggi parlate di entrambi. Sì. Parlo velocemente del burro. Ecco, burro... sì, arriviamo al dunque, Adriano, perché abbiamo tanti... Certo. Quello che voglio dire del burro che... nulla di più di quello che ha detto il signore, che è tutto vero, è l'unica roba che in Italia, insomma, già per mangiare un buon burro è difficile sceglierlo, perché nei supermercati non viene specificato se la panna è ottenuta dal latte, quella crema, il grasso, diciamo la panna, oppure è ottenuta dalla centrifugazione del siero, che sarebbe lo scarto della produzione del formaggio. Ecco, lì mi fermo. Bene, dopo, bene. Fermiamoci qui Adriano, grazie perché lei ha già lanciato un sasso in piccionaia, come si dice. Ma continuiamo a parlare di burro perché abbiamo con noi un notissimo chef padano, lombardo, quindi diciamo che di burro se ne intende, perché lo usa nella sua cucina, soprattutto perché diciamo che sui risotti ne sa qualcosa. Buongiorno Davide Oldani. Sì, buongiorno, ciao Davide, buongiorno a tutti. Davide, senti, ma c'è sempre questa diatriba olio e burro, ma il risotto, la cotoletta, le uova al tegamino, tu cosa preferisci, il burro o l'olio? Ma no, io sicuramente opto per alcune situazioni nel burro e prevalentemente burro crudo. Credo che l'olio abbia talmente un'importanza, io parlo solo gustativa, certo. Parlo proprio del gusto del prodotto. E in alcune situazioni, siccome sono al nord, insomma lo dimostra anche il tempo di oggi, questo profumo di oliva fresco, di frutto, eccetera, in alcuni piatti nella mia cucina non vanno bene. Quindi io non è che scelgo il burro perché sono un fondamentalista e quindi voglio assolutamente quello. Lo scelgo perché in alcune situazioni mi alleviano il profumo e voglio appunto un quel gusto, un profumo che sia di latticino. Vedi anche nel riso, io non faccio soffritto, non metto null'altro a parte una noce di burro alla fine, perché voglio che in alcuni risi ci sia questo profumo delicato di latte. So, devo dire che poi sono un po' contrario al fattore del burro chiarificato, che si utilizza spesso nella cucina. Perché questo? Ma perché viene privato dal siero, viene privato da tante caratteristiche che il gusto, il profumo del burro dovrebbe avere. Quindi il fatto di chiarificarlo in molte, io ho intervistato più situazioni cuochi o ragazzi che erano con me in cucina, e l'esigenza era quello di chiarificare il burro per avere una cottura di una temperatura più alta rispetto a quella del burro che solitamente brucia a una temperatura inferiore. E allora a questo punto preferirei utilizzare l'olio, garantendomi una buona cottura nel fritto. E quindi la cottura, il fatto di levare il siero dal burro per chiarificarlo, credo che sia uno di quei passaggi da eliminare nella cucina. Bene, rimani con noi Davide, sentiamo Alessandro da Bologna. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Volevo raccontarvi di un piccolo segreto della mia mamma per sapere se il burro è buono. Prego. Allora si prende un panetto di burro, si mette nell'acqua, si lascia sotto acqua e a temperatura ambiente, e soprattutto d'estate questo è molto interessante, perché malgrado il caldo il burro rimane intero. Se invece è un burro fatto male e di cattiva qualità si disfa. Bene. Quindi questo era un modo antico di tenere il burro sotto acqua, il burro vero. Beh, senti, guardi, sentiamo Dario Bressanini se è d'accordo su questo metodo di ricerca, lui che è un grande ricercatore. Dario. Ma allora, diciamo, il burro, se è fatto bene, non dovrebbe appunto sciogliersi al mettendolo a temperatura ambiente, dovrebbe ammollirsi. Ecco, la consistenza del burro dipende molto dalla velocità con cui viene stato fatto raffreddare dopo dopo il rapprendimento. Ecco. Bene, sentiamo Carla dalla provincia di Genova. Buongiorno Carla. Sì, buongiorno. Senta, io chiamo da Chiavari e volevo portare mia testimonianza per quanto riguarda l'olio. Noi produciamo a livello familiare l'olio nelle terre di Chiavari e le posso assicurare che le uova al tegamino col nostro olio sono una cosa superlativa. Bene, io non ho mai provato l'olio che lei produce, ma io preferisco decisamente sulle uova il burro in funzione invece dell'olio. Addirittura io sono un grande consumatore di olio, amo l'olio, però mi spiace, ma sulle uova al tegamino non ho dubbi. Volevo sentire Davide Oldani cosa ne pensa. No, io devo dire che sono d'accordo con te Davide, però magari azzarderei nel mese di agosto nell'uovo al tegamino, potrei provare a mettere un goccino di olio d'oliva, ma non nella cottura. Nella cottura la farei leggermente con un burro spumeggiante non stracotto e metterei un cucchiaino di olio d'oliva alla fine sul rosso, che fa sprigionare quel profumo delicato e perfetto che poi si abbina bene anche col tuorlo. Bene, fantastico, questo mi sembra che sia veramente il tocco dello chef. Grazie Davide Oldani. Sentiamo Giovanni da Modena. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Buongiorno, prego. Pronto? Sì, prego, parli. Allora, volevo dire a proposito della costituzione del burro da latte oppure da panna derivata dalla formazione dal parmigiano reggiano oppure formaggi duri, mi sembra che quel signore là non abbia detto delle cose tanto tanto belle, perché alla fine uno potrebbe capire che questa panna potrebbe essere mal conservata, per cui il burro che deriverebbe sarebbe un burro di scarsissima qualità. È quello. Beh, Dario, vuoi replicare a questa osservazione? Sì, no, non voglio implicare che sia, diciamo, mal conservato, assolutamente. Dicevo che le temperature tipiche di affioramento per la panna, per fare per esempio parmigiano, sono ad esempio tra il 15, 16, 18 gradi, comunque non sono temperature che poi porterebbero a mal conservazione, anche perché poi la panna per fare il burro viene pastorizzata. Le faccio semplicemente una questione di sapori. In questo periodo di tempo di affioramento si possono sviluppare, non è detto che ci siano sempre, ma si possono sviluppare dei sapori che, consumato a crudo il burro, si possono sentire. Tanto è vero che è un fatto che nei premi internazionali il burro italiano non vince quasi mai. Ecco, questo è un fatto. Bene, grazie Dario Bressanini. Sentiamo Andrea da Genova, un altro radioascoltatore. Vedo allora, chi c'è. Salve Paolini, senta, io sono un pasticcere, quindi di burro me ne intendo parecchio, perché noi usiamo parecchio. Comunque volevo dire che la tendenza nella pasticceria, io sono un pasticcere vecchio stile, di scuola vecchio stile, è adesso di queste grandi aziende, non potrei fare il nome, di vendere queste margherine melange, cioè praticamente dove sono trattate con, non so, una percentuale di burro e alla fine vengono a costare più di un burro, perché poi loro fanno uno studio in questi grandi laboratori per la resa, per la sofficità del prodotto e praticamente riescono a superire al burro, mi capisce? Bene, cioè, che persa un po' questa caratteristica. Ma io direi, Andrea, che nella pasticceria negli ultimi anni è arrivato molto l'olio d'oliva, perché ultimamente ci sono molti panettoni all'olio d'oliva, molti usano con le mousse di cioccolata, usano l'olio d'oliva, quindi diciamo che nel mondo della pasticceria sì, sicuramente c'è stato un allontanamento del burro, prima con la margarina e poi con l'olio d'oliva. Questo è vero ed è un segnale, credo, importante. Non lo so se dipende come viene messo in rilievo da una produzione italiana, sicuramente che non è all'altezza con quella di altri paesi, specialmente del nord Europa. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di acciughe e di burro, ma mi piacerebbe riascoltare quel pezzo bellissimo di De André. Le acciughe fanno il pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Li venderò per niente, lo chiedo a Roberto Ghezzi di Schooner, una società che diciamo seleziona anche acciughe, oltre ad altre cose, ma anche acciughe. Allora, Roberto Ghezzi, ma è proprio vero che le acciughe costano così poco? Io acquistando quelle del Cantabrico, devo dire che non sono molto d'accordo su questa canzone di De André, ma forse si riferisce all'Italia, alla Liguria o a qualche tempo fa. Davide, buongiorno, buongiorno a tutti. Permettimi di mandare un saluto particolare a Gennaro di Acqua Pazza, l'amico Gennaro. E venendo alla tua domanda, sì, in effetti le acciughe del Cantabrico sono le più care sul mercato e certamente non costano poco. Ecco, ma cosa hanno di particolare queste acciughe spagnole? Cosa hanno? Beh, innanzitutto tu sai che nel Medio Oceano, ma anche nel Mediterraneo, le acciughe non sono distribuite in maniera uniforme, ma vivono in certe zone in branchi. Nel Golfo di Guascogna, nel Mar Cantabrico, c'è questa, diciamo, quest'humus che favorisce una crescita di dimensioni superiori a tutte le altre, e quella parte per il clima delle acque gli dà quel grasso al punto giusto per farne la grande qualità, che poi questa grandissima e preziosa materia prima, tu sai che la pesca è stata chiusa per circa 5 anni, è ripartita in maniera molto selettiva e molto stringente, beneficia anche di un'altra grande realtà, che è l'esperienza siciliana nella lavorazione. I siciliani si sono spostati lì e hanno portato la loro tecnica di salagione alla vera carne, che ha finito per esaltare il prodotto. Bene, grazie Roberto, rimani con noi di questa diciamo distinzione. Ma ricordo numero verde 800 24 00 24, ma voglio leggere un sms che secondo me riassume molto di quanto si parla di burro. La merenda sana di una volta, pane e burro, una spolverata di zucchero ideale per riprendere le forze dopo un pomeriggio passato a giocare a palla. Bene, io credo che sicuramente questo sia molto significativo. Chi non ha fatto una colazione in questa maniera? Oggi probabilmente credo che veramente siano ben pochi coloro che fanno una colazione in questa maniera, però sono tanti che mangiano una bella fetta di pane, magari abbrustolita, ben abbrustolita, con sopra il burro e poi le acciughe. E allora chiedo a Umberto Milano dell'azienda Beppino Celli di Farigliano in Piemonte, provincia di Cuneo, nota appunto per la produzione di qualità del burro, se in questo momento in Italia c'è una crescita di domanda del burro. Assolutamente sì, buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie anche al signor Bressanini, che colgo l'occasione pubblicamente di ringraziarlo per averci citato nell'articolo del suo blog. Assolutamente sì, riguardo alla sua domanda, assolutamente sì, c'è sempre una maggior richiesta del burro, soprattutto in questi periodi di crisi dove la gente si riscopre casalinga, cioè non si va per esigenze economiche, si contraggono i consumi, quindi non si va più tanto al ristorante a mangiare fuori, si sta in casa e si ritorna a cucinare come i vecchi e i bei tempi, cioè le casalinghe ritornano a utilizzare le materie prime, quindi burro, farina, latte e uova. Quindi questo si sente questo revival? Assolutamente sicuro. Sì, assolutamente sì, e noi siamo per dare la genuinità, ecco, ricollegandomi a quello che si diceva prima, innanzitutto tengo a specificare davvero, per promuovere anche un po' il mio territorio, perché io sono di Cuneo, che l'1 e il 2 giugno si terrà Dronero la fiera degli acciugai. Dronero appunto era il culmine delle vie del sale che si snodavano dal dal Piemonte, quindi il Cuneo, fino alla Liguria, Sanremo, passando per Limone e Col di Tenda. Per cui, tornando a quanto si diceva, il burro buono, per descrivere il burro buono, lasciamo l'olio all'olio, lasciamo il burro al burro, il burro buono non deve sapere di formaggio, deve entrare sugli alimenti in punta di piedi. E tornando a dare una specificazione a quello che si diceva prima, può esistere un buonissimo burro di affioramento, ma sicuramente a livello di tecnologia di produzione la centrifuga, il burro di centrifuga, come il burro Celli, è sicuramente un plus, una qualità superiore, perché il latte viene separato subito dalla panna. E ci tengo a specificare che è anche vero che il burro italiano ha una, diciamo adesso, una qualità leggermente inferiore rispetto ad altri mercati esteri, perché la gran parte del latte non viene impiegata per fare burro, ma formaggio. Viene utilizzata da scarto per la produzione del grana. In questo Beppino Celli è stato un precursore, perché per primo ha utilizzato proprio il latte, ha ricercato i pascoli per far sì che dai fiori, perché poi da lì che arriva il latte, ho selezionato i fiori per una ricerca sui pascoli per far sì che il latte fosse il latte più buono che ci fosse. Bene, grazie Umberto Milano, la ringrazio. Sentiamo Franco da Genova, radioascoltatore. Buongiorno Franco. Pronto? Sì, prego Franco, parli. No, niente, io fugacemente ho sentito i discorsi che ha fatto quel signore sulle acciughe spagnole. Sì. Io sono anche un pescatore dilettante e vabbè. Secondo me le acciughe spagnole sono troppo grasse e assomigliano più alle sardine che alle acciughe. Se il salto e le acciughe più buone sono quelle della Liguria, e non perché io sono ligure. Sì, sì, vabbè. E soprattutto quelle di Monterosso. Va bene. Questo è quello che volevo dirvi. Grazie Franco. Bene, è evidente che il campanilismo è imperante, anche perché se chiamassimo anche Marina di Pisciotta nel Cilento, che stiamo cercando appunto un pescatore che avevamo individuato ma non ci risponde, anche lui per le famose alici di Menaica avrebbe risposto alle stesse cose, perché è un altro punto importante della pesca. Voglio tornare a Roberto Ghezzi, quali sono, diciamo, le aree italiane importanti per le acciughe? Ma diciamo che purtroppo ci sono stati nel tempo grandi cambiamenti, perché una volta erano eccezionali quelle della Gorgona, ma poi sono completamente sparite. Noi avevamo uno stabilimento in Toscana che lavorava quel prodotto, ma l'abbiamo dovuto chiudere perché non avevamo pesca circa 15 anni fa. Oggi le aree importanti del Mediterraneo, più che, perché purtroppo una cosa che tu dovresti cercare di portare avanti è di far sì che sia obbligatorio indicare nelle acciughe, come in altri prodotti lavorati, l'origine dove è stato pescato, perché durante il periodo di fermo di pesca girava sul mercato prodotto acciughe Spagna, non certo Cantabrico, ma che creava confusione. Per quanto riguarda le aree importanti sono il canale di Sicilia, la zona di Pantelleria quando dà delle ottime acciughe, e poi volevo rispondere brevemente se è possibile sono un estimatore delle acciughe di Monterosso. Ma per avere una acciuga salata che abbia quella carnosità, quella morbidezza, non si deve sentire nessun odore o sapore di grasso in bocca. Questo è la sua conformazione un po' grassa, gli permette di avere quella salatura che alla fine non si sentirà il grasso e non sarà salata. Bene. E questa è la grossa forza dell'acciuga del Cantabrico. Grazie. È ben lavorata. Beh, certo, sempre. Grazie Roberto, il problema dell'origine dei prodotti ci riporta sempre allo stesso punto che abbiamo contro Bruxelles. Questa cosa indecente dell'olio che ancora una volta ci hanno bocciato a Bruxelles è veramente indecente. Bisognerebbe inscenare una protesta alimentare contro Bruxelles. il gastronauta. Eccoci di nuovo, burro e acciughe, questo ritorno, questa accoppiata felice, chiamiamola così, veramente una accoppiata molto ma molto felice. Sentiamo Vincenzo dalla provincia di Salerno. Buongiorno Vincenzo. Salve, buongiorno, innanzitutto i miei complimenti alla trasmissione. Bene. Senta, io no, sentivo la radio e praticamente dalle nostre parti c'è ancora, anzi è frequente, questa usanza di dare ai nostri figli come merendina, non più quelle industrializzate ormai, ma molto frequente, perché siamo, voglio dire, un paesino di collina, e quindi ai nostri figli diamo spesso queste merendine anche con le acciughe e pane e olio come merenda a scuola. Questo volevo. Ma sai, guarda, sono le due sono merende, diciamo, che dividono l'Italia, nel senso che pane, burro e pane e olio, diciamo che abbiamo la divisione appunto della produzione delle materie prime dell'Italia, ed è giusto anche così. Magari negli altri paesi non c'è neppure, diciamo, questa ricchezza. Teniamoci questa grande ricchezza di queste produzioni. Grazie Vincenzo. Bene, abbiamo con noi ora Roberto Brazzale, presidente del gruppo lattiero caseario Brazzale e di Gran Moravia. Buongiorno, buongiorno Brazzale. Buongiorno Paolini. Lei che è sempre così dinamico e battagliero, le leggo, ho una decina di sms che tutti dicono il burro italiano è di scarsa qualità, ricorriamo sempre a burri stranieri, e c'è qualcuno che dice, ma questo secondo me non c'entra con la qualità, che solo con i burri stranieri, quelli del nord, si trova il burro salato che tanto farebbe gola anche a molti italiani. Lei cosa ne pensa? Questo a noi non è un'esperienza che ci tocca, perché noi esportiamo un sacco di burro verso anche paesi grandi produttori di burro di centrifuga. Ho ascoltato precedentemente gli interventi e io vorrei dire che stiamo parlando qui del re della cucina, è il più prezioso derivato del latte. L'ho sentito definire la panna di affioramento come uno scarto del latte, ma qui non è assolutamente così. I nostri formaggi nazionali italiani sono straordinari, soprattutto i formaggi duri, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, e prevedono una separazione della panna che è naturale anziché la separazione meccanica delle centrifughe. È chiaro che questa avviene nell'arco di qualche ora di tempo, ma bisogna considerare che rispetto al passato oggi ci sono anche delle tecnologie di conservazione dei semplicissimi tank refrigerati che permettono di avere delle panne conservate in modo perfetto, tant'è che oggi noi che produciamo centinaia di migliaia di quintali di burro, per cui una certa esperienza ce l'abbiamo, facciamo talvolta fatica a capire la differenza fra un burro di centrifuga e un buon burro di affioramento italiano. Veramente questa, direi che qui stiamo parlando di una gradazione di un fenomenale alimento, potremmo dire paragonarla alla gradazione fra un Michelangelo e un Raffaello, capite? Beh. In realtà il burro di centrifuga non è proprio così, certe volte, specialmente quando viene dai paesi del nord Europa, porta con sé anche un sapore più di latte. Noi nella nostra dieta italiana, la nostra cucina italiana, ci siamo più abituati invece a questo burro italiano, che pur essendo di straordinaria qualità ha una caratteristica diversa, ha una gamma di sapori diversi più adatti alla nostra cucina. E se mi permette vorrei anche aggiungere, cogliere l'occasione, ringraziarla perché lei sta parlando di burro, perché il burro in realtà è comunque un prodotto che non solo porta la gioia in cucina, ma anche sotto l'aspetto nutrizionale è un prodotto straordinario. E l'equivoco incredibile in cui si è finiti è che il burro faccia male, è una cosa incredibile, e contro questo pregiudizio, che in realtà è cresciuto a causa di gossip nutrizionistici o investimenti di gruppi che cercavano di spostare il consumo verso grassi di altra natura, per esempio quelli vegetali, oggi si sta rivedendo, perché il consumo ha capito che il burro è uno dei prodotti più sani che ci siano in natura, è prodotto fisicamente, è una semplice emulsione, e soprattutto che il burro ha una valenza nutrizionale straordinaria. Bene, io la fermo, perché è chiaro che non si deve esagerare. Noi abbiamo fondato un movimento per la liberazione dai pregiudizi sul burro. Bene, per dare la felicità. Interessante, in cucina. Interessante questo è molto interessante, non lo sapevo. Bene, grazie del suo intervento, perché devo dire, come al solito, è stato molto. Io ho tantissime telefonate. Comunque la ringrazio perché ci stiamo avvicinando alla fine di questa sua, diciamo, difesa del burro. Ora magari arriveranno tante difese dell'olio, ma l'olio non ha bisogno di essere difeso. Appunto, questi gossip di cui parlava Brazzale sull'olio, se Dio vuole, non ci sono. Ci sono stati solamente per alcune truffe che sono avvenute. Speriamo che con i nuovi disciplinari, appunto, che sono stati imposti l'etichettatura, ci siano sempre di meno. Sentiamo Antonio da Milano. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Senta, io volevo spezzare una lancia sulle alici di Menaica di Marina di Bisciotta. Io ne ho appena parlato perché avevamo, diciamo, appuntamento con un pescatore, e il quale ieri ha detto sì e poi oggi non è intervenuto, perché anch'io sono un fan di queste alici. Probabilmente quindi... sarà in mare l'amico pescatore. Sì, l'amico pescatore forse sarà in mare. Sì, certo, sono un altro punto importante dell'Italia e noi appunto ne volevamo parlare. Bene, visto tra l'altro è un presidio dello food, no? Sì, siamo forse gli ultimi a fare questo tipo di pesca con questa rete a maglie larghe. Sì, perché diciamo che la Menaica è una tecnica di pesca, non è una denominazione di origine, molti la confondono. Grazie Antonio. Sentiamo Gianni dalla provincia di Imperia. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi, buongiorno. Complimenti intanto, sempre questa trasmissione è molto interessante per noi anche liguri, che l'acciuga per noi è divina. Volevo spezzare anche una lancia per il macchetto cosiddetto, che è poi la crema di acciuga fatta, ricavata, i pescatori la facevano con le teste, l'interiora messa a macerare, mischiate periodicamente, e generano questa crema di acciuga che ha dei sapori straordinari. E spesso anche invece, come diceva l'ascoltatore precedente, sull'olio d'oliva. Noi purtroppo in Liguria, purtroppo per fortuna, il burro non lo usiamo molto, ma usiamo volentieri il nostro olio d'oliva extravergine delicato con quello del lago di Garda, che reputiamo noi, ce la spendiamo come uno dei migliori d'Italia. E la pasta di olive però per il pinzimonio, fare la pasta con la crema di olive del macchetto, dell'acciuga del macchetto, è veramente interessante. Ma questo prodotto è straordinario. Una goccia di olio d'oliva e sì, una punta di questo macchetto fa un pinzimonio, fa una cremina per il pinzimonio straordinario. Grazie Gianni, grazie. Vedo che i liguri sono molto, ci tengono molto, ma è anche giusto che tengano la loro terra. Alessandro dalla provincia di Arezzo, buongiorno. È caduto? Bene, diciamo che siamo verso la fine, quindi mi spiace per Norma dalla provincia di Roma che non posso fare intervenire, ma vedo che mi dicono che voleva intervenire dicendo che usa molto burro anche con l'olio. Beh, su questo io starei molto attento di mescolare questi due, un grasso vegetale con un grasso animale. Bene, abbiamo finito e ora magari mi viene voglia di mangiare pane, burro e acciughe, perché dopo questa trasmissione sicuramente non resta che questa voglia, magari acciughe, diciamo anche acciughe italiane, perché no. E io vi do appuntamento domani all'interno del Riposo del Guerriero alle 11:40 con le suggestioni. Domani darò alcune suggestioni che riguardano alcune bottiglie di vino, e quindi vi do appuntamento poi alla prossima settimana, quindi sempre con il Gastronauta, stessa ora e stesso posto e stessa radio. Io ringrazio Paolo Corleone in regia e Benedetta Acri in assistenza. Buona giornata e buon weekend, e speriamo senza acqua. Da Davide Paolini.